song blues man dell'arco re. Facite mas una sta serenata. I song blues man dell'arco re. Facite mas una sta d'amoriate. Un piccirillo di Daville a mezzanotte fanno le bordiel, ma sto blues fa gerirmi, ma lasciatemi su non facitemi su una scalina di bella bella bella bella bella. Zuccolilla, zuccolilla, zuccolilla. Un calippo song, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca canzone. Un calippo song, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca canzone. A zuccolilla dorme non lo sa. Chi song blues man dell'arco re. Sto blues fa gerirmi, ma lasciatemi su no, facitemi su una scalina piella bella, bella, bella, bella. A zuccolilla, a zuccolilla, a zuccolilla. Con calippo song, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca canzone. Un calippo song, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca canzone. I song blues me dua Corea. Facci domani una serenata. I song blues man dell'arco re. Facite me su una stata muriata. Yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame. I song blues man dell'arco re. Facite me su una stata serenata. Voglio una zuccolilla di Davide. A mezzanotte fanno le bordiella. Yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame, yame,